It's time now to return to Sarah and Lorenzo. Here's the language you'll need for the next dialogue. Meraviglioso. Wonderful. Meraviglioso. Il menù. The menu. Il menù. La carta dei vini. The wine list. La carta dei vini. Che cosa? What? Che cosa? Here's that new language again. Meraviglioso. Wonderful. Il menù. The menu. La carta dei vini. The wine list. Che cosa? What? And now here's the next dialogue.